Con la sigla ufficiale, le note di Monsignor Marco Frisina, l'inno dedicato a San Pio X. Riprendiamo dunque il nostro percorso dopo lo svolgimento del convegno internazionale di studi la settimana scorsa, giovedì a Treviso e venerdì a Venezia. Trovate sul nostro canale YouTube ampio resoconto, le registrazioni delle sessioni plenarie, anche di alcune sessioni parallele che si sono svolte appunto in quelle due giornate, una presenza molto qualificata, interventi molto interessanti, alcuni anche molto specifici, ma alcuni anche molto divulgativi, che hanno permesso insomma al sottoscritto innanzitutto, ma anche agli uditori, a chi magari riguarderà questi interventi appunto su YouTube, di conoscere meglio questa figura di pontefice e di santo. È proprio questo lo scopo principale dell'anno centenario, che andrà a culminare con il 2014, far conoscere meglio, riscoprire, rivalutare la figura di un papa, di un pontefice che prima di guidare la Chiesa Universale è stato vescovo, è stato parroco, è stato cappellano e ha passato tutti i gradi appunto della gerarchia ecclesiastica, ma l'ha fatto non ovviamente con senso di carriera, ma con davvero spirito di servizio. Una figura che ci accompagna ogni settimana e abbiamo interpellato nella giornata di venerdì scorso a Venezia uno dei suoi successori, l'attuale patriarca. Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, lei è uno dei successori di Pio X. Che cosa conosce di questa figura che, a quanto abbiamo sentito nella prima giornata, era veramente poliedrica? Dunque, lui è il 38esimo successore di San Lorenzo Giustiniani, io il 48esimo successore. Sì, io penso che vada scoperta proprio la figura di San Pio X a 360 gradi, un pastore. Certe volte si dice un pastore, quindi non è un teologo, quindi non è un uomo di cultura. San Pio X ha messo le mani in tutte le realtà ecclesiali: la catechesi, la liturgia, il canto sacro, il diritto canonico, la riforma della curia romana. Quindi è riuscito lui, pastore, che non aveva un'esperienza di chiesa mondiale, internazionale, a guardare la plenarietà della realtà ecclesiale con uno sguardo veramente da pastore, cioè da uomo che guarda Dio e guarda il suo popolo. Anche il fatto di essere stato cappellano, parroco e aver fatto tutti i gradi, diciamo, gerarchici, può aver aiutato. Tombolo, Salzana, la provincia veneta e Padova, canonico di Treviso, padre spirituale in seminario, vescovo di una diocesi che era in grande difficoltà. Mantova era in grande difficoltà quando inizia l'episcopato il Monsignor Sarto, e poi la diocesi patriarcale di Venezia. Qui io direi che diventa un uomo veramente vicino a tutti i preti, perché ha percorso tutte le tappe, dal seminarista fino al vicario di Cristo, lui le ha passate veramente tutte, quindi credo che sia una figura gradevole per ogni sacerdote. Qualcuno ieri lo accostava anche a Papa Francesco per le riforme. Beh, ogni Papa si caratterizza per quello che è, poi noi uomini li interpretiamo. Certamente un uomo che non apparteneva all'apparato curiale dopo i 25 anni di pontificato di Leone XIII, un uomo che non conosceva la curia, e forse in questo c'è una grande analogia con Papa Francesco. Probabilmente anche vedremo anche nell'azione pastorale che nella differenza però li situa come due uomini che veramente intendono il ministero petrino come servizio pastorale alla diocesi, alla Chiesa Universale. Era la voce del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha presenziato alla giornata veneziana del Convegno Internazionale di Studi su San Pio X, riforma del cattolicesimo, le attività e le scelte di Pio X. Questo era il tema della due giorni di convegno. Sul nostro canale YouTube, quello di Blu Radio Veneto, ricordiamo ci sono le sessioni plenarie e anche alcune sessioni parallele delle giornate, così potete, se non siete stati presenti, andare a risentire, a vedere appunto gli interventi che sono stati proposti, molto interessanti, approfonditi, di alcuni dei massimi esperti della storia e dell'opera di San Pio X. Con la nostra rubrica ci diamo appuntamento fra 7 giorni, sempre in questo orario, e inizieremo a conoscere meglio anche altre attività programmate nel corso dell'anno centenario. In particolare, nelle prossime settimane ci terranno compagnia alcuni studenti che hanno lavorato e stanno lavorando sulla storia di questo santo.